Europa 24. Un saluto da Raffaella Calandra. In questa puntata di Europa 24 ci occupiamo di giustizia e di una delle questioni più difficili e annose in Italia, la prescrizione tra le richieste delle istituzioni internazionali e gli scontri della politica interna. Abbiamo fatto il punto. Il dibattito si riapre ad ogni grande inchiesta su mazzette, tangenti e pubblica amministrazione, come riformare tutta la normativa anticorruzione, così come chiesto da Unione Europea, Consiglio d'Europa e OCSE, ossia in modo che risulti efficace, quindi con una norma chiara, sanzioni adeguate e soprattutto con una prescrizione più lunga. Nel grande capitolo di riforma della giustizia, il guardasigilli vorrebbe aprire un nuovo tavolo tra tecnici per evitare il solito braccio di ferro su questo punto e rispondere però anche alle continue raccomandazioni di Consiglio d'Europa, Unione Europea e OCSE, che hanno dato tempo fino a marzo 2015 per risolvere in modo strutturale il problema e quindi riformare la prescrizione, che soprattutto dal 2005 in poi, cioè con la legge ex Cirielli che ha tagliato i tempi di estinzione dei reati, disintegra di fatto troppo spesso i processi, a partire da quelli proprio per corruzione. Ripetute nel tempo sono state le raccomandazioni delle istituzioni internazionali per un adeguamento agli standard degli altri paesi del Consiglio europeo, come ricorda da Strasburgo Paola Accardo, coagente del governo italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. Il punto di base di partenza è senza dubbio la tutela dei diritti, che non possono essere sacrificati in una prescrizione troppo rapida. Le vittime del reato, la tutela della persona riguarda non solo l'aspetto risarcitorio, ma l'aspetto di vedere realizzato anche il necessario intervento punitivo dello Stato. Quello che richiede l'Europa è una tutela sostanziale delle posizioni giuridiche e dei diritti assicurati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei suoi protocolli. Quindi all'Italia si chiede una prescrizione che non sia troppo breve, che si permetta alla giustizia di fare il suo percorso e non invece far sì che troppe volte il tempo scaduto della prescrizione blocchi questo accertamento dei fatti. Esattissimo. Al Ministero di Giustizia sulla lotta alla corruzione si vorrebbe ripartire dalle conclusioni della cosiddetta Commissione Fiorella, istituita dal precedente ministro. Ne ha fatto parte, tra gli altri, l'avvocato Valerio Spigarelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. Si distingueva una pena sostanziale che si sospendeva dopo la sentenza eventualmente di condanna di primo grado per far svolgere il processo d'appello e poi il processo per Cassazione. Fino al 2006 noi avevamo 250.000 dichiarazioni di prescrizione all'anno, dal 2006 in poi noi siamo arrivati ad oggi a 120.000 dichiarazioni di prescrizione all'anno. Il che ci dice che non è che allungando i tempi della prescrizione che si hanno meno prescrizioni. Le istituzioni europee fanno il conto con una giustizia che funziona, non con una giustizia che non funziona. Per cui poi dicono che la prescrizione non può essere una sorta di tagliola dell'accertamento penale. Se una giustizia che non funziona non può presentare il conto all'imputato pure delle sue disfunzioni. È un discorso che si può fare se noi introduciamo dei meccanismi di prescrizione del processo per mancata osservanza dei tempi delle indagini preliminari. Se noi, ancora di più, introduciamo meccanismi di verifica della iscrizione nel registro notizie di reato, se noi, e questa è la cosa più importante, ragioniamo sulla obbligatorietà dell'azione penale, allora possiamo anche diversificare la prescrizione sostanziale. Se si dice che con la sentenza di primo grado sospendo la prescrizione o addirittura elimino la prescrizione, succede che i tempi dei processi si allungano a dismisura. Di sicuro dunque quella della prescrizione sarà una delle questioni più difficili del prossimo autunno in tema di giustizia e la sfida sarà conciliare le richieste dell'Europa e i veti delle varie parti italiane. Europa 24 termina qui, un saluto da Raffaella Calandra. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.